9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori. 43esimo giorno di ingovernabilità e non ci sono novità apprezzabili al momento. Fatto salvo naturalmente quello che insomma le cronache politiche che leggete quotidianamente, l'intervento del Presidente della Repubblica e soprattutto un po' di confusione è il tema che abbiamo deciso di affrontare oggi, mentre prima la confusione riguardava diciamo tre blocchi, i tre partiti che si spartiscono il Parlamento in questo momento, le tre forze politiche che si spartiscono il Parlamento al momento. Adesso la confusione sembra essersi spostata anche all'interno della forza in maggioranza relativa, ossia il Partito Democratico. Di questo parleremo oggi. Se volete potete telefonare all'800 24 0024, potete scrivere a me, Simone Spetia, su Twitter mi trovate, oppure l'hashtag che abbiamo scelto per oggi e che scegliamo sempre quando facciamo le puntate di politica, almeno in questa fase, è il pantano. Saluto Claudio Velardi, spin doctor, curatore con Fabrizio Rondolino del sito thefrontpage.it. Buongiorno Velardi e benvenuto. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico, vicina a Matteo Renzi. Buongiorno Bonafè. Io però, prima di parlare con loro, ho fatto una promessa. Ieri, come sapete, abbiamo fatto una puntata sulla vicenda di Civitanova Marche, su quel doppio suicidio a causa della crisi, a causa di una stretta dello Stato sui debiti, delle difficoltà economiche, delle difficoltà di ammettere anche solo queste difficoltà economiche e quindi di chiedere aiuto. Ebbene, ieri mi è arrivata un'email a 9 in punto a radio24.it da un'ascoltatrice che chiede di rimanere anonima, e questo lo rispettiamo naturalmente, la chiameremo Elena. E che ci scrive questo, le scrivo perché questa mattina non ce la potevo fare ad ascoltare, basta. È emerso in modo evidente quanto la politica sia distante da noi. Sto vivendo in famiglia gli stessi problemi di centinaia di persone, nella solitudine di cui si parlava. Siamo devastati dalla depressione e la speranza sarebbe il futuro dei nostri figli, che non hanno colpa e ne hanno diritto alla speranza, naturalmente. La dignità ci sta sfuggendo e ne abbiamo bisogno proprio per loro, per i figli. Ho seguito la politica arrampicandomi ad un cambiamento che non c'è e non vuole avvenire, solo populismo, interesse economico e personale. Le parole di Costa Magna, lo preciso, è il presidente del Consiglio Comunale di Civitanova, che è stato ospite ieri nostro, non servono a nessuno, ci fanno sentire quanto lontano da noi sia. Non può essere la Chiesa a sostenerci, nemmeno i gruppi di autoaiuto, seppure importanti, ma il comune non è mezzo gaudio. La speranza sono i giovani, chi ci tiene in vita sono i figli, e lo sforzo che facciamo per far capire loro che bisogna cercare in tutti i modi di trovare delle soluzioni per non perdere dignità e speranza. Seguo giorno per giorno le vicende politiche, questo è quello che più mi deprime, più delle vicende personali, che sono veramente enormi e a volte disperate. Non è solo uno sfogo questo, forse è un modo per confessare quello che nel mio sociale, tra la gente che mi è vicina, non ho completamente il coraggio di dire, proprio perché le persone che hanno sempre avuto stima di te, sapendo di una tua debolezza, ti emarginerebbero e tu perderesti quel poco di dignità rimasta. Ho risposto via mail a Elena, abbiamo deciso di chiamarla così, e le ho detto che insomma che sono sentimenti perfettamente comprensibili anche da una persona come me, che pure ha un posto di lavoro fisso, ha, scusate l'espressione brutale, le chiappe al caldo. È quel senso di smarrimento che si prova di fronte ad una crisi che è più profonda di quella solamente economica, e che una persona come me, che ha tre figli, appunto guarda con proprio con smarrimento. È esattamente questo quello che posso suggerire. suggerire è questo, è che in realtà proprio per questo motivo, proprio per quello che ho detto, la debolezza è di tutti alla fine di fronte a quello che sta avvenendo, e quindi non abbia paura di parlarne e soprattutto non molli, che è la cosa fondamentale. Su questi temi sicuramente torneremo. Oggi parliamo di politica, dunque. Io inizierei da Simona Bonafè. Io non ho capito Bonafè e chiedo un suo punto di vista che cosa sta succedendo nel Partito Democratico, perché ho sentito almeno 4-5 visioni diverse su quello che deve avvenire nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Ci aiuti e ci dia una misura di quello che sta avvenendo. C'è chi addirittura parla di possibilità di scissione. Bonafè. Ma ora, possibilità di scissione mi sembra un po' azzardata come ipotesi, però ecco, mi faccia dire che intanto ho ascoltato la lettera dell'ascoltatrice, le devo dire che io sento e avverto questo grido di dolore che arriva dagli italiani, questo senso di smarrimento. L'ascoltatrice parlava di mancanza di speranza per i giovani e credo che davvero sia la cosa più pesante con la quale abbiamo a che fare in questo periodo. E questo ci dice però che il paese è in difficoltà e che ha bisogno di risposte urgenti. Lei mi chiede qual è la situazione. Io le posso dire, parto da un dato di fatto, che a 45 giorni dalle elezioni, insomma più di 40 giorni dalle elezioni, noi di fatto oggi non abbiamo ancora un vero e proprio governo legittimato dal Parlamento. E guarda, io penso che il primo dato sia questo, cioè, noi dobbiamo necessariamente uscire da questo stallo, dobbiamo necessariamente fare presto, perché guardi, ogni giorno che passa in condizioni di incertezza, perché poi quella che stiamo vivendo è sostanzialmente una condizione di incertezza totale, la situazione economica del nostro paese peggiora, il senso di speranza viene meno e avere a che fare con un quadro sociale in grande difficoltà, un quadro economico in grande difficoltà e la politica paralizzata, mi lasci dire che insomma un po' di senso di smarrimento lo produce anche sì, a me. L'impressione però, Bonafè, è che la paralisi del sistema politico che poteva attribuire al risultato elettorale si sia un po' estesa al vostro partito, nel senso che, ripeto, ne leggo di ogni. Stamattina stessa, di fatto, Bersani ha di nuovo escluso la possibilità di un governissimo, quando Franceschini sembrava aver aperto, quando lo stesso Renzi sembrava aver aperto la possibilità di un governissimo. Sinceramente non ci capisco più niente, e visto che avete, mi scusi e concludo, ne parliamo e lo chiarisco anche per gli ascoltatori, perché dato che avete in mano voi il pallino al momento della della situazione politica, abbiamo bisogno di capire, prego. Ma le dicevo appunto che se l'esigenza principale è quella di uscire dallo stallo in cui ci siamo infilati, io penso che abbiamo due vie d'uscita ad oggi. Una è quella di, anche perché la terza via che avevamo davanti, che era quella di un accordo con il Movimento 5 Stelle, più volte Bersani si è appellato alla corresponsabilità del Movimento per il Paese, devo dire che è una strada che mi sembra ormai preclusa. Dopodiché abbiamo due possibilità, una è quella di capire che tipo d'accordo si possa fare con il PDL, peraltro so che Bersani si incontrerà a breve con Berlusconi e lì capiremo qual è la strategia che seguiamo. E l'altra è quella delle elezioni, e poi io capisco che abbiamo una legge elettorale pessima e che rischierebbe di produrre un risultato identico a questo, anche se insomma poi fino in fondo non ci credo, perché probabilmente la responsabilità di questo impasse qualcuno la dovrà anche assumere, e non mi riferisco al Partito Democratico chiaramente. Per cui io dico, oggi le due soluzioni che abbiamo in campo sono queste e vediamo come uscire, perché torno a dirlo, cioè noi abbiamo un paese in difficoltà, un paese che ha bisogno di riforme strutturali, e prima siamo in condizioni di mettere il paese, cioè di avere un governo, di mettere mano alle riforme strutturali, meglio è per tutti. Quindi il primo input che dobbiamo, la priorità in questa fase è questa. Velardi, lei come la vede? Come la vede? Perché insomma abbiamo bisogno anche di una visione da fuori e un po' da dentro come la sua, insomma. Partiamo dal pallino. Il pallino se lo è preso di forza Bersani, non è che è nelle sue mani perché qualcuno glielo ha consegnato, se l'è preso di forza. Io qualche giorno fa ho citato questo episodio in un'altra occasione, sono stato in una università e di prima acchito ho chiesto agli studenti chi ha perso le elezioni. Mi hanno detto Bersani. Questo è quello che la gente ha percepito delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Il problema è che il giorno dopo le elezioni Bersani, invece di prendere atto di questo e mettere tutto nelle mani di Napolitano, ha detto no, me la vedo io, ci penso io. Da allora ha prima tentato l'accordo con i 5 Stelle e l'accordo non è riuscito. Poi ha detto mi rivolgo dall'altra parte al PDL, ma facendo una proposta, come dire, subordinata, diciamo, non la principale, che è quella di fare un accordo di fondo, diciamo, di sistema con il PDL, quindi un po' balbettando, e il risultato è che c'ha questo pallino ma non sa che farsene, e lo vuole lui in maniera anche un po', vuole tenerselo in maniera un po' prepotente. Non so se ci rendiamo conto, noi abbiamo ancora, questo Bersani è ancora pre-incaricato, cioè è come se ancora fosse in piedi l'ipotesi del suo incarico a 43 giorni dal voto. Non è una buona cosa. Allora è comprensibile che nel PD si faccia strada un po' di discussione. Peraltro devo dire, Renzi è stato civilissimo, perché è stato zitto perlomeno per un mese e più. Solo la settimana scorsa ha detto, beh, forse c'è qualcosa da rivedere in questa strategia, ma certo non lo si può criticare per questo. Io piuttosto, come dire, una critica in più, diciamo, a Bersani, di quelle che solitamente faccio, la farei anche per queste direzioni che ogni tanto annuncia e che anche stamattina ha detto in TV andrà in streaming, cioè tutti quanti sapranno quello che si dice in questa direzione. Questo che viene interpretato spesso come uno strumento democratico, in realtà è una maniera per tappare la bocca a chi dentro il partito vorrebbe mettere in discussione questa strategia senza sbocchi di Bersani, e naturalmente è più difficile che lo faccia quando c'è un collegamento streaming. Insomma, questo per dire che appunto Bersani si è preso per forza, diciamo, il pallino nelle mani dopo il voto, a 43 giorni dal voto noi siamo senza un governo e senza una prospettiva di governo, perché adesso avremo le elezioni del presidente e tutto il resto, e nel partito principale, diciamo, dei tre che sono in campo dopo il voto, c'è un notevole caos strategico ed una fibrillazione politica molto forte che però non si manifesta. Non è un bel bilancio, purtroppo è da attribuire a errori strategici e anche a una certa protervia di Bersani. Una certa protervia di Bersani. Bonafè, su due sollecitazioni, provocazioni, in realtà idee di Velardi, ossia il fatto che Bersani abbia dimostrato una certa protervia da una parte, e dall'altra parte sulla questione dello streaming, io devo dire che concordo abbastanza. Insomma, questa fissa dello streaming ammazza il dissenso interno e la discussione vera. Ma senta, intanto mi faccia dire che sulla strategia di Bersani, cioè è vero che il Partito Democratico non ha vinto le elezioni, è anche vero però che il Partito Democratico ad oggi è il partito che ha, anche in virtù di una legge elettorale che abbiamo criticato più volte, ma oggi ha la maggioranza assoluta alla Camera e la maggioranza relativa al Senato. Per carità, non ha la possibilità di fare un governo da solo, ma questo è il dato di partenza. Ecco perché a mio parere aveva il diritto e, se vogliamo, anche il dovere di tentare di trovare diciamo i numeri per una maggioranza di governo, tant'è che appunto ha ricevuto il preincarico da parte del Presidente della Repubblica. Dopodiché è anche vero che noi ad oggi abbiamo tre blocchi all'interno del Parlamento, pressoché di forza uguale in termini di consenso, meno in termini di rappresentanza all'interno delle Camere, dopodiché è altrettanto evidente che se vogliamo fare un governo e se non vogliamo andare alle elezioni, cosa che peraltro io non escludo, vorrei essere molto chiara, però ecco, se vogliamo fare un governo è chiaro che con qualcuno dobbiamo dialogare, ed è chiaro anche che il primo tentativo di Bersani è stato quello legittimo, poi chiaramente discutibile, strada in salita, lo dicevamo tutti e lo sapeva anche Bersani, è stato quello di tentare appunto un accordo con il Movimento 5 Stelle, che non ha prodotto nessun tipo di risultato, ed è chiaro che ad oggi qualcosa deve succedere, perché non possiamo permetterci di lasciare questo paese in queste condizioni. Sullo streaming, ma io guardi, sono una grande fautrice della trasparenza. Dopodiché, ecco, le degenerazioni credo che facciano sempre male, anche perché, guardi... Cioè, è una degenerazione mandare la direzione del PD in streaming? Ma no, ecco, non mi riferivo tanto alla direzione del PD in streaming, mi riferivo agli appelli alla trasparenza, per esempio, del Movimento 5 Stelle, che poi però organizza i pullman e non si sa dove vanno, e non si sa queste riunioni, loro che tanto sono affezionate al concetto della trasparenza, poi a queste riunioni di fatto non c'è streaming e non c'è nulla, perché nemmeno dichiarazioni si lasciano andare, per cui insomma capiamo che tipo di trasparenza vogliamo anche lì, no? Sicuramente con lo streaming a tutti diciamo a tutti i costi rischia anche secondo me poi di mortificare il dibattito. Ecco, diciamo che per esempio lo streaming delle consultazioni fra Bersani e il Movimento 5 Stelle, beh, non è stato uno streaming piacevole, no? Non piacevolissimo, non è che proprio mi ha risposto Bonafè, ma magari dopo ci torniamo. Voglio sentire qualche ascoltatore. Innanzitutto Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno, volevo lanciare un grido di dolore, sono uno che ha votato Grillo per la prima volta e mi sento addolorato per quanto sta succedendo, come diceva la sua collega, che qui i signori politici dovrebbero fare un giro per questo che sta succedendo nelle città. Io sto a Roma, stanno chiudendo tutti, uno appresso all'altro, gente che va, io sto vicino al mercato a prendere le mele per terra o la frutta o qualche pezzo di verdura. Questo è un grido allarmante, come quel signore che dice l'Italia sta morendo e quel signore morirà presto a lui, ma così moriremo tutti. Mi auguro che ci sia un buon senso da parte di Berlusconi e Bersani per fare un governo alla svelta, perché veramente siamo esasperati, non ne possiamo più. Io la ringrazio per questo mio sfogo. Grazie a lei, grazie Giovanni. Sentiamo anche Anna Rita che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. No, io volevo soltanto evidenziare tre punti. La prima è una constatazione. Però Anna Rita, abbiamo un audio pessimo, magari vediamo di recuperarla. Michelangelo dalla provincia di Foggia, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo dire solo questo, che in Italia mancano i veri leader politici, perché noi non abbiamo più dei leader politici, abbiamo gente che pensa solo ai propri interessi. E l'hanno dimostrato negli anni e lo stanno dimostrando. Sì. Io penso che l'Italia non può essere più lasciata nelle mani dei politici, o che intervengono i militari, o che il potere Michelangelo, per carità, il golpe addirittura. Poi io sono abbastanza contrario alle generalizzazioni. Comunque, ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. 9 in punto. Ci scrivete, mi scrivete con l'hashtag Il Pantano, mi scrive Duccio, sono 6 mesi che fate campagna contro il PD, se volevate il governo potevate fare la campagna per il PD invece che per chiunque altro. Duccio, non facciamo campagna per nessuno e contro nessuno. A me sembra in tutta franchezza che in questo casino il Partito Democratico ci si sia messo un po' da solo, ecco, in tutta sincerità, con un buon aiuto di un forte voto di protesta arrivato al Movimento 5 Stelle. Ignazio Marino, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. E benvenuto, fresco di vittoria alle primarie per la candidatura a sindaco di Roma. La prima cosa, molto semplice, se l'aspettavo oppure no. Io me l'aspettavo perché ho molto viaggiato all'interno della nostra straordinaria e bellissima capitale e incontrando le persone, dai pensionati alle mamme, a chi ha lavoro, a chi il lavoro non ce l'ha, avevo percepito la sensazione di un desiderio di cambiamento rispetto a candidati che fossero maggiormente espressione, e lo dico rispetto del partito più tradizionale. Io anche all'interno del mio partito spesso sono stato in posizioni di minoranza, ma ho sempre avuto coerenza con i principi, ad esempio quando mi candidai nel 2009 con un'esperienza politica brevissima alla segreteria del Partito Democratico, dissi allora no al nucleare e sì all'acqua pubblica. Le persone di Roma, dove ad esempio adesso c'è una questione importantissima con l'ACEA e con il sindaco Alemanno che vorrebbe di fatto privatizzarla, dando la maggioranza del consiglio di amministrazione dell'azienda più importante per l'acqua ai privati, le persone di Roma se lo sono ricordate, questa mia visione e queste mie dichiarazioni. Questo piacerà molto, Marino, questo piacerà molto probabilmente anche agli elettori del Movimento 5 Stelle, suppongo, insomma, conoscendo le loro battaglie. Voglio portarla sul Partito Democratico, appunto, lei fresco di vittoria alle primarie. Io vedo molta confusione in questo momento. Abbiamo in linea anche Claudio Velardi, che poco fa ha parlato addirittura di protervia da parte di Bersani nel voler insistere su questo preincarico che in realtà, da quel che abbiamo compreso, ancora mantiene. Chi parla di accordo col PDL, chi ancora insiste, pochi per fortuna, nell'accordo col Movimento 5 Stelle, dico per fortuna perché non se ne è cavato un ragno da un buco in sostanza, e non perché non si possa fare, non sia lecito un accordo col Movimento 5 Stelle, chi spinge per nuove elezioni. Devo dire che il partito mi sembra in grande confusione, Marino. Evidentemente ci sono posizioni diverse e questo non è un bene. Dico subito che ci sono degli organismi nel nostro partito e che forse queste posizioni diverse il confronto dovrebbero averlo all'interno degli organismi e non attaccandosi sui giornali. Ma questa è una mia valutazione personale ce l'ha con Renzi, Marino? No, perché Matteo Renzi è una persona importante, ha delle idee e le esprime. Certo, se le venisse a esprimere anche in direzione, io personalmente, come questione di stile, ne sarei più felice, però non è certo l'unica persona che non parla all'interno dei luoghi che sono costituiti come la direzione per la discussione, e poi parla sulle pagine dei maggiori quotidiani italiani. Diciamo che nel nostro partito ne abbiamo diversi che si comportano in questo modo. Ma detto questo, che soltanto, insomma, non è sostanza, la sostanza è che il paese si sta impoverendo sempre di più. Nell'ultimo anno 41 imprese manifatturiere hanno chiuso ogni singolo giorno, le banche non prestano i soldi agli imprenditori, adesso forse c'è un piccolo spiraglio perché con questo decreto ci sarà la possibilità per lo Stato e per le amministrazioni pubbliche di pagare alcuni dei loro debiti, però insomma il Paese evidentemente si sta impoverendo, è bloccato, ha bisogno di un governo. Quindi lei che farebbe un accordo col PDL se fosse in Bersani? Io credo che innanzitutto, se vogliamo parlare di sostanza, non accadrà nulla fino all'elezione del capo dello Stato. Il capo dello Stato spero venga eletto in un giorno solo con una grandissima maggioranza, venga scelta una figura al di sopra delle parti di grande saggezza, e poi il capo dello Stato, nella pienezza dei suoi poteri, deve stabilire a chi dare l'incarico e formare il governo. Se questo non sarà immediatamente possibile, allora io credo che l'unica soluzione logica sia quella di cambiare rapidissimamente la legge elettorale, in modo da avere una legge elettorale che permetta ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e soprattutto conoscere la sera dello spoglio chi ha i numeri per governare il paese. E tornare al voto quanto prima a questo punto. A meno che, io è chiaro che questo lo auspico, che il nuovo Presidente della Repubblica, nella pienezza dei suoi poteri e quindi anche con la straordinaria forza di poter dire: guardate, questa è la persona che io vi indico come Presidente del Consiglio, ascoltate il suo programma, guardate la sua squadra di ministri, se non gli date la fiducia io sciolgo il Parlamento. Un'azione che a causa della scadere del suo mandato Giorgio Napolitano non può fare con questa pienezza. Naturalmente non può fare. Bonafè, Simona Bonafè, siamo entrati in quello che uno, insomma, che il cuore della questione, naturalmente, che poco si potrà fare alla fin fine finché non si elegge il nuovo capo dello Stato. Oggi ho letto una cosa curiosa nei famosi retroscena che vengono regolarmente smentiti il giorno dopo, che ci sarebbero contatti tra i renziani, e quindi voi, e i cosiddetti giovani turchi, quelli più vicini alla segreteria per Luigi Bersani, bisogna vedere quanto, poi tra l'altro, per ipotizzare una Boldrini presidente della Repubblica. Che ci dice? Ma senta, intanto mi faccio fare i complimenti a Ignazio Marino, e a cui auguro un buon lavoro, perché adesso arriva la sfida principale, che è quella di far tornare una città complessa ma affascinante come Roma nelle mani del centrosinistra, perché ritengo che, insomma, il centrodestra di risultati devastanti ne abbia già prodotti a sufficienza, per cui davvero buon lavoro Ignazio. Dopodiché io le posso fare l'identikit di quello che vorrei fosse il nuovo capo dello Stato. E le dico subito che mi piacerebbe giovane donna marchigiana, no. guardi, tra l'altro una grande stima della presidente Boldrini, ritengo anche che sia stata una bella operazione di grande innovazione quella della presidenza della Camera a Boldrini, appunto. No, le posso fare un identikit, che è quello, insomma, a prescindere dal genere. È chiaro che come donna, insomma, penso che sia anche giunto il momento per le donne di assumere responsabilità importanti in questo paese come il capo dello Stato, però non è a questo che mi riferisco, non è alla questione di genere. Io penso che il capo dello Stato debba essere un Napolitano 2. Ora so perfettamente che Napolitano ha rinunciato al secondo mandato, però deve essere una persona con le sue caratteristiche, a mio parere, cioè una persona di grande caratura morale e le direi anche di grande lungimiranza politica, perché poi non ci dimentichiamo che da tutte queste secche che ha attraversato il paese nel settennato di Napolitano, insomma, il presidente ha sempre avuto la lungimiranza di farci uscire, cioè non ci dimentichiamo che il governo Monti è frutto di un'operazione Napolitano, anche se con tutti i limiti che poi ha avuto il governo Monti, di fatto però ha, come dire, rimesso in circolo nei circuiti internazionali il nostro paese, che era, e ha anche dato una risposta al ballo dello spread di quel periodo e all'incapacità del governo Berlusconi di offrire ricette per risolvere la crisi economica. Siete Bonafè, siete terribili, non vi si tira fuori un nome. Guardi, tirare fuori un nome adesso è anche controproducente, perché si rischia di bruciarlo, almeno a me così hanno insegnato. Poi le dico anche che non... Ma guardi, è semplicemente perché noi siamo abituati troppo a ragionare di nomi, e questo lo dico in generale, e meno di contenuti. Allora io le sto dicendo, facciamo una rivoluzione anche culturale, ragioniamo di contenuti, di come lo vorremmo questo capo dello Stato. Io lo vorrei come le ho descritto. Dopodiché si troverà anche il nome. Sì, vorrei anche, guardi, le dico anche questo, vorrei anche che fosse una figura che riuscisse ad attrarre su di sé il massimo consenso possibile e immaginabile, okay. Insomma, che sia davvero una figura di garanzia per il maggior numero di partiti presenti in Parlamento. Che è la cosa più complicata. Devo dirle la verità, il tema mi sembra quello che poi lei in realtà sottolineava all'inizio, che la cosa difficile nel trovare un sostituto di Giorgio Napolitano è trovare una figura che abbia la stessa caratura internazionale. Non è tanto la questione della capacità istituzionale dei rapporti interni, sono convinto che poi quando uno diventa Presidente della Repubblica si sveste in qualche misura anche del suo passato e diventa il Presidente della Repubblica, punto, certo. E basta. Il problema è trovare qualcuno che abbia la stessa caratura internazionale di Giorgio Napolitano, no Velardi? Sì, ma direi che però il problema ha una sua semplicità messa così, perché intanto io capisco, insomma, che la Bonafè debba metterla in quel modo, però non si elegge un contenuto, si elegge una persona. Allora, la persona da eleggere che corrisponde maggiormente al profilo giusto, che è quello di Napolitano, si chiama Giorgio Napolitano, come è evidente, questo lo capisce chiunque. E c'è una cosa semplice da fare: Berlusconi, se ha proprio voglia davvero di dare un contributo e non semplicemente di fare propaganda, nei prossimi giorni, alla vigilia del voto, basta che proponga la rielezione di Giorgio Napolitano. Il PD a quel punto non potrà dire di no, a meno di spaccature, di divisioni molto serie, e Giorgio Napolitano, per un periodo limitato di tempo, perché naturalmente bisogna tenere conto anche di quello che lui sacrosantemente ha detto a più riprese, potrà cercare di sbrogliare questa intricatissima matassa. Sarebbe la cosa più semplice, temo che non la faranno né Berlusconi né Bersani. perché gli piace andare in cerca di cose complicate. Mm. Però diciamo questa sarebbe la cosa più semplice e anche fattibile, naturalmente. Un impasse pazzesco. 9 in punto. Allora, sentiamo qualche ascoltatore, poi torniamo da Marino, mentre Simona Bonafè ci ha lasciato dopo essere stata con noi fin dall'inizio della trasmissione. Abbiamo recuperato Annarita da Roma, mi raccomando, brevi, eh. Annarita, buongiorno. Buongiorno a tutti Telegrafica. La prima cosa è che al di là delle infiltrazioni di voti di destra alle primarie del PD, comunque Bersani si è confermato come il candidato prescelto, forse questo se lo scordano tutti. L'altra cosa è che l'atteggiamento di Grillo, e non parliamo di Movimento 5 Stelle perché lì è Grillo, è tutto più casaleggio, Grillo sta spingendo il PD in un abbraccio mortale col PDL al suo unico tornaconto, anche perché non si capisce quale tipo di governo e di accordo potrebbero fare il PD con il PDL, visti alcuni argomenti di fondo che non possono essere. Di tutto questo sta facendo le spese Bersani, che è forse l'unica persona veramente coerente e seria da questo punto di vista, non avendo nulla contro Renzi, anzi. Annarita, chiaro, non telegraficissima, spero più telegrafica, Lella che ci chiama da Milano, buongiorno. Pronto? Sì, pronto? Sì, sì, ci sente? Sì, abbiamo sentito un sottofondo di mannaggia la miseria, o non so se sia stato un altro ascoltatore. Prego, no, prego Lella. Io no. Prego, è bello, immagino, insomma, perché era una voce possentemente maschile e insomma molto romana o simili. Prego Lella, buongiorno. Senta, una cosa semplicissima, forse troppo, però da madre, da nonna, la persona che vive un'ansia come tutti, e io dico, avete 8 punti a destra, 8 punti a sinistra, non si trovano gli 8 punti, ma ce ne sono di punti comuni, fate quelli, non ne farete 8, ne farete 6, ne farete 5, di là lasciano da parte un momento le coppie di fatto, di qua non restituiscono l'IMU, e insomma trovate questi 5-6 punti e fate un governo che ci porti avanti un po' e ci fa un passo avanti, finito, salve. Grazie, grazie Lella. Sentiamo anche velocemente Fabrizio dalla provincia di Latina, poi torniamo da Ignazio Marino. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire due cosine. Ho sentito che la signora Biancofore voleva un presidente come Napolitano, ma Napolitano in 7 anni ha fatto più. No, era la Bonafè, la Biancofiore ha lanciato una campagna per Berlusconi al Quirinale, un'altra cosa. Scusi. E poi a Ignazio Marino che diceva dei problemi, ma i problemi li hanno creati loro politici che da 20 anni governano l'Italia, sono loro che ancora dicono che risolvono i problemi, ma loro li hanno precreati i problemi, adesso sono in grado di risolvere, questi non sono in grado di risolvere un bel niente. Grazie Fabrizio per il suo intervento. Io a questo punto torno da Ignazio Marino. Vox Populi, Vox Dei, ha sentito che cosa vi dice? Insomma, è anche un mantra che sentiamo da qualche tempo questo qua. E però mi interessa invece fare una domanda su quello che dice Lella da Milano, che alla fine è quello che sentiamo più spesso in questi giorni. Ho capito che ci sono delle valutazioni politiche, perché l'accordo con Berlusconi non si può fare perché vi crea problemi alle prossime elezioni e il Movimento 5 Stelle guadagna un sacco di voti, ma fatelo questo accordo col PDL, fate 5 punti di programma, la legge elettorale, il dimezzamento, un paio di riforme costituzionali ben fatte e pensate insieme e chiudiamola qua, insomma, no? Ma io non sono assolutamente in disaccordo con la scelta di 5, 6, 7 punti centrali, però evidentemente proprio sui punti centrali, sul merito, che è difficile, se non impossibile, immaginare un accordo con il partito di Silvio Berlusconi, che è il responsabile del declino morale ed economico del nostro paese negli ultimi 20 anni. Perché se io le dico i punti, una incandidabilità degli indagati e dei condannati, una vera legge contro la corruzione che costa all'economia italiana 60 miliardi di euro l'anno, una stretta sull'evasione fiscale che costa 120 miliardi di euro l'anno, una sola Camera legislativa, insomma è una legge elettorale che consenta la sera delle elezioni di conoscere chi governerà stabilmente il Paese. Io non so se su questo, e a questo aggiungerei certamente una legge sul conflitto di interessi che non è stata fatta alla fine degli anni 90 e che è necessaria in un paese democratico. Quindi lei è per l'incandidabilità per il voto sull'incandidabilità di Berlusconi? Ma io non sono per l'incandidabilità della singola persona, io sono per un sistema dove in una democrazia chi ha un conflitto di interesse importante non possa essere candidabile. Ma guardi che non è un'idea originale di Ignazio Marino, è l'idea che viene utilizzata in tutte le democrazie del nostro continente e anche del Nord America. Siamo quasi in chiusura, Marino. Abbiamo un minuto. Una battuta su questa vicenda dei Rom in coda per le primarie, insomma, no? Lo sa, forse i nostri ascoltatori l'hanno sentito. Ho fatto un po' di sarcasmo ieri con i giornalisti che ne hanno parlato. Innanzitutto dire che una partecipazione di 102.000 persone per eleggere il candidato sindaco è un flop, e dire che invece è un metodo di straordinaria democrazia ed un successo che 533 persone abbiano scelto il candidato del Movimento 5 Stelle mi sembra un po' schizofrenico. Come poi i Rom sono persone e vanno trattate come persone, ma a Roma sono circa 7.000 compresi i neonati. Noi sappiamo che hanno votato qualche decina di Roma, ma anche se avessero votati tutti e 7.000, compresi i neonati, 102.000 meno 7.000 fa 95.000. E come si fa a dire che sono state le primarie dei Rom? Questo non l'ha detto nessuno, a dire il vero. Uno dei principali quotidiani di Roma l'ha titolato a 6 colonne in prima pagina: Marino vince le primarie dei Rom. Questo era il titolo, lo vado a guardare. Grazie Ignazio Marino, grazie a Claudio Velardi, grazie anche agli ascoltatori che non sono riusciti a far intervenire, a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a domani. Ricordati! Mancano 83 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione. Si sente.